Letture di Radio 24. Nel 1948, 15 anni prima del libro di Pierre Boulle, che diede origine al ciclo hollywoodiano del pianeta delle scimmie, Aldous Huxley aveva dato alle stampe La rivalsa delle scimmie, un romanzo ambientato nel 2108 in uno scenario post-atomico dove l'Africa equatoriale e la Nuova Zelanda sono le uniche terre dove gli esseri umani sono riusciti a sopravvivere alla Terza Guerra Mondiale. A Los Angeles sopravvive una comunità di umani regrediti che adorano il maligno e danno alle fiamme i libri, mentre il resto dell'America è dominato dalle scimmie che tengono gli uomini in schiavitù. Come nel suo romanzo più famoso, Il mondo nuovo, anche qui Huxley considera il regresso dell'umanità del futuro come conseguenza degli eccessi del progresso, come evidenziato in questo discorso pronunciato dall'arcivicario del maligno. Senza la bomba atomica, il maligno avrebbe ugualmente conseguito tutti i suoi scopi. Un po' più lentamente, forse, ma altrettanto sicuramente gli uomini avrebbero distrutto se medesimi, distruggendo il mondo in cui vivono. E se fossero stati affamati, non avrebbero tardato a farsi la guerra. E anche nel caso in cui avessero cercato un sistema pacifico e razionale per risolvere il dilemma, lui teneva in serbo un altro, più sottile corno di autodistruzione. Fin dal primo vagito della rivoluzione industriale, egli aveva previsto che gli uomini sarebbero diventati così presuntuosamente arroganti per i miracoli ottenuti dalla tecnologia, che ben presto avrebbero perso ogni senso della realtà. Ed è esattamente ciò che accadde. Questi sventurati schiavi degli ingranaggi e dei libri mastri cominciarono a congratularsi con se medesimi, proclamandosi conquistatori della natura. Conquistatori, sicuro. In realtà, avevano semplicemente ribaltato l'equilibrio della natura e si accingevano a soffrirne le conseguenze. Consideriamo un momento a cosa si sono dedicati nei 150 anni che hanno preceduto la cosa. Hanno insozzato i fiumi, sterminato gli animali selvaggi, distrutto le foreste, annaffiato il terreno con l'acqua di mare, arso un oceano di petrolio, dissipato minerali la cui formazione aveva richiesto tutta un'era geologica. Un'orgia di imbecillità criminale. E l'hanno chiamato progresso. Progresso. Io dico che una tale invenzione era troppo acuta per essere il frutto di una mente umana qualunque. Troppo diabolicamente ironica. Deve esserci stato un aiuto da fuori, perché ciò fosse possibile. Deve esserci stata la diabolica grazia del maligno, che non è mai negata a chi sia preparato a cooperarvi. Progresso e nazionalismo. Ecco le due grandi idee che lui ha messo in testa all'umanità. Progresso. La storia secondo la quale è possibile ottenere qualcosa per niente, la teoria che si può guadagnare in un campo senza essere costretti a pagare per tale guadagno in un altro campo, la teoria che tu solo conosci il significato della storia, la teoria che tu sai quello che accadrà tra 50 anni, la teoria che, di fronte a ogni esperienza, tu puoi prevedere tutte le conseguenze delle tue azioni, la teoria che l'utopia ti sta davanti, a portata di mano, e che, siccome una fine ideale giustifica i mezzi più abominevoli, è tutto privilegio e dovere truffare, depredare, asservire, torturare e uccidere tutti coloro che a tuo giudizio, il quale per definizione è infallibile, si frappongono alla marcia in avanti verso il paradiso terrestre. Più studiamo la storia moderna, e più evidente ci appare la presenza della mano direttrice del maligno. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal romanzo di Aldous Huxley, La rivalsa delle scimmie, Gargoyle Books, 176 pagine, 16 euro. Letture di Radio 24. Il clan dei miserabili è il sesto capitolo delle avventure di Bruno Astolfi, il detective privato protagonista dei romanzi di Umberto Lenzi. Il regista toscano, tra i maggiori protagonisti del cinema di genere degli anni 70, autore di cult movies come Sette orchidee macchiate di rosso e Milano odia, la polizia non può sparare, da qualche anno si è dedicato alla narrativa scrivendo thriller ambientati nei set cinematografici dei più famosi film degli anni 40. Nel suo ultimo romanzo, il delitto da cui partono le indagini di Astolfi è quello di un certo Tiberio De Sanctis, ex marito della segretaria di edizione, trovato morto sul set dei Miserabili. L'adattamento del capolavoro di Victor Hugo, diretto da Riccardo Freda e interpretato da Gino Cervi e Valentina Cortese. Come sempre, il romanzo mescola storia e finzione e i personaggi di fantasia si alternano ai veri protagonisti del mondo dello spettacolo che il detective finisce per incontrare nel corso delle sue indagini. Al Teatro Valle, la compagnia di varietà Totò, Isa Barzizza, Elena Giusti si esibiva da 3 settimane nella rivista C'era una volta il mondo di Michele Galdieri. Il punto forte dello spettacolo, al quale assistei nel pomeriggio pagando regolare biglietto, era lo sketch del vagone letto che il grande comico napoletano interpretava con la sua spalla, l'attore Mario Castellani, e con l'avvenente Isa Barzizza in abiti succinti. Lo sketch iniziava appunto nel vagone letto di un treno diretto a Milano, dove il maestro di musica Antonio Scannagatti, impersonato da Totò, iniziava un divertente assurdo diverbio con l'altro ospite dello scompartimento a 2 letti, l'onorevole Cosimo Trombetta. A seguire vi furono alcuni intermezzi musicali, tra cui, come apoteosi finale, quello della marcia dei bersaglieri eseguita in una corsa trionfale da tutti gli attori della compagnia. Non appena il pubblico sfollò quasi completamente dal teatro, mi diressi verso i camerini degli attori. Ma non ero tranquillo. Durante lo spettacolo avevo avuto la sensazione di essere tenuto d'occhio da qualcuno, defilato tra gli astanti del loggione. 2 o 3 volte mi era parso di notare un tizio che mi lanciava delle occhiate furtive. Ma poiché l'individuo si trovava in penombra e si distingueva poco dai tanti altri spettatori, finii col convincermi che si trattasse di un'impressione erronea, dovuta alla tensione che non riuscivo a controllare come avrei voluto. Tensione dovuta in buona parte alla consapevolezza che tra la dozzina di ballerine sul palcoscenico vi era Mirka Folder, una possibile assassina. Nel corridoio dei camerini mi imbattei in Mario Castellani, l'attore alto e segaligno vittima abituale di Totò. Era ancora in abiti di scena e appariva stanco e di malumore. Mi presentai e chiesi dove potevo incontrare la ballerina Mirka Folder. Castellani mi squadrò irritato. «Lo chiedo a lei». «Dove possiamo incontrarla, visto che quella sfrontata da 2 giorni non si presenta in teatro e abbiamo dovuto sostituirla?» Restai sconcertato e la mia inquietudine aumentò. «Ma non avete provato a telefonarle?» «Certo, io stesso oggi l'ho chiamata un paio di volte, ma il telefono resta muto, non risponde nessuno. Vuoi vedere che se n'è andata a fornicare a Fregene con qualche imprenditore della caciotta sarda?» In quel momento fummo raggiunti da Totò che, già struccato, aveva ascoltato l'ultima parte della conversazione. «Scusate se mi intermezzo, ma voi chi siete, un ballerino?» chiese fissandomi con i suoi occhi a spillo. «No, affatto», risposi. «Allora non ballate?» insisté. «No, e non raccontate balle?» «Neppure». Totò storse il suo mento deragliato e continuò piccato. «Per il sangue di San Gennaro, non ballate, non raccontate balle. A prescindere, signor Balleroni, voi avete tutti i crismi fisiologici del ballerino. E perbacco, siete alto, slanciato... ed è ziandio di aspetto aristocratico. Se lo dite voi, sospirai paziente. Se dico io, vi potete fidare. Fidatevi, perché aristocratici si nasce. Ed io, modestamente, lo nacqui. L'attore si scappellò la bombetta in segno di saluto. Riverisco. Esequi alla signora. Non appena il grande comico si fu allontanato a piccolo trotto, mi rivolsi a Castellani. Allora, sa dirmi dove abita la Folder? Castellani sospirò. In un appartamento al 3° piano di via Labicana, al numero 76. Le strade erano buie, stava per piovere e si percepiva il rumore di tuoni in lontananza. In 10 minuti, il traffico a quell'ora era pressoché inesistente, raggiunsi via Labicana e parcheggiai la macchina di fronte al portone del numero 76, un palazzone popolare di stile umbertino. La portineria, sebbene avesse le luci accese, Era deserta, ma si percepiva un vociare sommesso al di là di un tramezzo. Evitai di usare l'ascensore, poiché soffrivo fin da ragazzo di claustrofobia, e salii di corsa le scale fino al pianerottolo del terzo piano, dove era situato l'appartamento della Folder. Prima di bussare, mi fermai un attimo a riprendere fiato. Il silenzio era rotto dalle note malinconiche della canzone Serenata Celeste, trasmessa da una radio all'interno, con la voce dell'idolo del momento, Oscar Carboni. Serenata celeste, celeste come gli occhi di una donna che rassomiglia tanto a una Madonna. Bussai più volte alla porta senza ottenere risposta. Spazientito, estrassi di tasca un coltellino svizzero multiuso e inserii una lamella nel foro della serratura, facendo scattare il fermo dopo un paio di tentativi. Entrai in punta di piedi nell'appartamento completamente buio. Le note irradiate dalla canzone risuonavano come un triste presagio. Ah, tu che tutto hai saputo, acque del cuore che non ha scordato, i sogni d'oro che non ha sognato. Accesi la luce. Il bicamere appariva deserto. Spensi l'apparecchio radio Marelli sistemato su una mensola e diedi uno sguardo preoccupato intorno. C'era una gran confusione dappertutto. Suppellettili rovesciate, cassetti aperti, mobili ispezionati a fondo e il materasso del letto a due piazze squarciato. Con metodo presi a frugare tra i materiali da trucco sparsi per terra, in cerca di un indizio qualsiasi. Finalmente, in un vasetto di crema detergente ancora intonso e protetto dal sottocoperchio di cartoncino, rinvenni qualcosa di interessante. Tra la crema bianca e burrosa era inserito un anello d'oro con diamante incastonato. Lo ripulii con cura e lo riposi in tasca. Mi spostai di nuovo nella camera da letto e lo sguardo mi cadde su un fazzoletto per terra. Lo raccolsi. Era macchiato di sangue fresco. Ebbi la percezione che Mirka Folder fosse stata portata via a forza, probabilmente ferita, dagli sconosciuti che avevano messo a ferro e fuoco l'appartamento. Mentre stavo riflettendo sul da farsi, una voce acuta risuonò alle mie spalle. «Al ladro, correte, presto!» Un uomo alto e massiccio mi si buttò addosso sul pianerottolo abbrancandomi. Era un tipo tosto, esibiva la forza di un campione di lotta greco-romana, ma io ero stato pugile e con un potente gancio al fegato riuscii a liberarmi. Il macellaio barcollò, poi con un grido soffocato tentò di afferrarmi un braccio. Più lesto di lui, lo colpii d'incontro con un violento montante alla mascella. Prima che avesse il tempo di riprendersi, mi catapultai giù per le scale, spintonando con decisione due inquilini che cercavano di sbarrarmi la strada. Appena guadagnai l'uscita, corsi verso la lancia, saltai al posto di guida e con una sgommata mi allontanai a tutta velocità, sfiorando pericolosamente un tram della circolare notturna che procedeva in senso contrario. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Umberto Lenzi, Il clan dei miserabili, Cordero Edizioni, 166 pagine, 14 euro. Nel 1925, durante la sua permanenza a Berlino, Vladimir Nabokov, autore di Lolita, scrive una breve guida alla città. Brevi appunti che nascono dalle sue osservazioni e che avrebbero dovuto servire ai posteri per avere un'idea di com'era la città in quegli anni. Fra circa 20 anni il tram elettrico scomparirà, come è scomparso quello a cavalli. Mi pare che abbia già un'aria antica, una specie di fascino fuori moda. Tutto lì è un po' goffo e traballante, e quando il tram prende troppo velocemente una curva e il trolley scatta fuori dalla linea di alimentazione e il conducente oppure un passeggero si sporge dall'estremità posteriore della carrozza, guarda in alto e fa dondolare il filo fino a quando l'asta di presa di corrente non è tornata al suo posto, mi immagino sempre il cocchiere delle diligenze di un tempo, a cui a volte sarà caduta la frusta e che, tenendo a freno il tiro a 4, avrà mandato a raccoglierla il ragazzo in livrea dalle lunghe falde che gli sedeva accanto a cassetta e traeva squilli acuti dal corno mentre la diligenza attraversava veloce un villaggio sferragliando sull'acciottolato. Il bigliettaio ha mani molto insolite. Si muovono svelte come quelle di un pianista, ma invece di essere molli, sudaticce e con le unghie delicate, sono talmente ruvide che quando gli mettiamo le monete nel palmo e capita di sfiorarlo, ci sembra sia coperto di una dura crosta chitinosa e proviamo una sorta di disagio morale. Sono mani straordinariamente leste ed efficienti, nonostante la ruvidezza e lo spessore delle dita. Lo osservo incuriosito mentre con le unghie larghe e nere stringe il biglietto in una morsa e lo punzona due volte, rovista nella borsa di cuoio, da uno strattone alla corda della campanella, oppure quando, con una spinta del pollice, apre la finestrella speciale della porta davanti per distribuire i biglietti ai passeggeri della piattaforma anteriore. E per tutto il tempo il tram continua a oscillare. I passeggeri in piedi nel corridoio si afferrano alle maniglie a pendaglio e ondeggiano avanti e indietro. Eppure l'uomo non fa cadere una sola moneta, né un biglietto strappato dal rotolo. In questi giorni invernali, la metà inferiore della porta sul davanti è stata schermata con una tenda di stoffa verde. I finestrini sono annebbiati dal gelo. Gli alberi di Natale in vendita ingombrano il bordo dei marciapiedi a ogni fermata. I piedi dei passeggeri sono intorpiditi dal freddo e talvolta una manopola grigia di lana pettinata copre le mani del conducente. Al capolinea la vettura di testa si sgancia, si inserisce su un binario di raccordo, gira attorno a quella rimasta ferma e le si accosta da dietro. Qualcosa ricorda una femmina sottomessa nel modo in cui la seconda vettura aspetta che la prima, il maschio, lanciando verso l'alto una piccola fiammata crepitante, si avvicini e si accoppi. E, senza la metafora biologica, mi sovvengo del modo in cui circa 18 anni fa a San Pietroburgo si sganciavano i cavalli per farli girare attorno al panciuto tram blu. Il tram a cavalli è scomparso e scomparirà anche il tram elettrico. E se un eccentrico scrittore berlinese negli anni 20 del XXI secolo vorrà scrivere il nostro tempo, visiterà un museo della tecnica e cercherà una vettura tranviaria di 100 anni prima, gialla, sgraziata, dai sedili curvi e antiquati, e anche un museo del costume, dove andrà a scovare una divisa da conducente, nera e con i bottoni lucenti. Poi tornerà a casa per mettere assieme una descrizione delle strade di Berlino in giorni remoti. Ogni cosa, anche la più insignificante, sarà preziosa ed essenziale. La borsa del conducente, il cartello pubblicitario sopra il finestrino, quel movimento peculiare a scossoni che i nostri pronipoti forse riusciranno a immaginare. Tutto sarà nobilitato e giustificato dall'età delle cose. Secondo me, in questo sta il senso della creazione letteraria. Descrivere gli oggetti comuni come essi appariranno riflessi nello specchio benevolo dei tempi futuri. Trovare negli oggetti che ci circondano la tenerezza fragrante che solo i posteri sapranno discernere e apprezzare in tempi lontani, quando ogni inezia della nostra semplice vita quotidiana sarà considerata ammirabile e gaia, come in effetti è. Tempi in cui un uomo che indossi la più banale giacca dei nostri giorni sarà abbigliato come per un elegante ballo in maschera. E queste erano alcune righe dalla Guida di Berlino, di Vladimir Nabokov, uno degli scritti raccolti nel libro Una bellezza russa e altri racconti. Adelphi, 758 pagine. 18 euro.